La critica di fondo è che queste forme di volontariato di fatto nascondono un ampio settore che si basa sul lavoro gratuito, ovvero stiamo trasformando quella che è la domanda di lavoro in volontariato, facendo leva in qualche modo, no, sulle promesse non monetarie: incontrerai nuovi amici, farai grandi esperienze, ti renderai partecipe di una grande esperienza di sensibilizzazione, come era nel caso della Jova Beach Party. E sostanzialmente questo però è un modello che si sta espandendo ormai a vista d'occhio, soprattutto in questo settore che è quello dell'industria culturale. Ora abbiamo fatto due esempi, uno è quella sportiva, in realtà più nello specifico degli europei 2020, ma diciamo non sono nei primi e probabilmente purtroppo non saranno neanche gli ultimi, ovvero sono tutti grandi eventi la cui diciamo nome messa in atto si basa sostanzialmente sulla possibilità di sfruttare dei lavoratori non pagandoli, ovvero non sono, come dire, eventi di militanza come potevano essere le vecchie feste di partito, la sagra del comune, di paese, insomma dove c'è una comunità, e soprattutto l'evento non è a scopo di lucro, ma sono grandi eventi dove girano e dove si fatturano cifre astronomiche. I calcoli che venivano fuori dalla stampa sul Jova Beach Party parlano di 1 milione di euro. Ora non è Jovanotti che regola questa gente, ma è tutta l'organizzazione che si presta a questa cosa, così come per gli europei 2020, dove di fatto si richiedono 1000 volontari in Italia, ma in tutto saranno 12.000, perché poi diversi paesi porteranno i loro volontari, diciamo, a partecipare, così via. Ma sono delle cose che vediamo, il giorno dopo quello del Jova Beach Party l'abbiamo visto dall'Università di Verona, dove piuttosto che pagare e reclutare laureandi o laureati in belle arti o cose simili, di fatto cercano volontari per fare cosa? Per fare le guide nelle mostre, che è un lavoro. Nello specifico, cosa offrono gli organizzatori degli europei a questi volontari? Gli organizzatori degli europei forse sono dei casi più drammatici, nel senso che offrono, al di là di una bellissima tenuta per tutto il periodo, la possibilità di vedere le partite non allo stadio ma in questa sala che è comunque il centro volontari, e i pasti sostanzialmente, e come benefit il potersi muovere, che c'è l'abbonamento dei mezzi per il mese in cui dovranno stare su Roma. Lavoreranno per 10-12 ore al giorno, cioè tantissimo, anche perché assisteranno su tutte le vari i vari poli degli eventi e così via, e tra l'altro c'è benissimo scritto, anche proprio in evidenza esplicita, così che la gente appunto non dovesse sbagliarsi, che non potranno vedere le partite in diretta, le vedranno in questo centro che poi insomma sarà la solita sala polifunzionale per volontariati. Perché è necessario dire basta a questo tipo di lavoro? Sicuramente dire basta, perché è un ossimoro che viviamo nel capitalismo basato sul lavoro salariato e adesso non si vuole neanche più pagare il lavoro. Basta, perché se dobbiamo fare esperienze, che queste siano quantomeno retribuite, è in qualche modo anche meglio, no? Perché poi non abbiamo soltanto il volontariato totale, ma spesso anche gli stage tirocini, nonostante ci siano dei regolamenti regionali, comunque anche europei, non vengono retribuiti o vengono retribuiti davvero a livello da fame. Dall'altro lato basta, perché se diciamo che il problema in Italia è la mancanza di lavoro, quando guardiamo la realtà vediamo che il lavoro c'è ma non lo si vuole retribuire. Poi diciamo che le università e le lauree in materie umanistiche non servono a niente, quando abbiamo tutto il settore dei beni culturali, e questo anche responsabilità dello Stato, che fa leva sul lavoro gratuito e volontariato, e allora non ci rendiamo conto, o quando chiediamo perché la gente migra dall'Italia, siamo troppi. Questo è uno dei fattori, perché poi questa gente, se penso soltanto agli archeologi o appunto a chi si occupa di mostre, chi si occupa di beni culturali, chi si occupa di cultura in generale, negli altri paesi con le loro bellissime lauree riescono ad avere, cioè non dico la rivoluzione, ma un lavoro che quantomeno gli permetta di sopravvivere. Può anche configurarsi come un problema per i disoccupati, tra l'altro. Questo sì, nel senso che quando ci riferiamo soprattutto al caso di questi grandi eventi, se ci pensiamo, per ogni lavoratore volontario, se vogliamo, rimane a casa per una giornata di lavoro o per quello che è la durata dell'evento un disoccupato. Ovviamente c'è una sostituzione, che è la stessa sostituzione che è stata fatta per esempio in molti casi con l'alternanza scuola-lavoro: non c'è più bisogno di assumere, quindi in qualche modo di ridurre la disoccupazione in maniera attiva ed efficace, perché tanto li possiamo sostituire con persone che sono obbligate al lavoro gratuito e sono gli studenti. Come dire, è vero che da soli non andiamo da nessuna parte, però non è neanche vero che non si possa dire basta, ed è un'azione collettiva da intraprendere vista la deriva in qualche modo che stiamo vivendo.